Buonasera cari amici di Radio Big World, il sottoscritto Pietro Pancamo è qui per presentarvi un nuovo ospite, vale a dire il bravo poeta umbro Paolo Ottaviani, al quale cedo subito la parola. Più cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Permettetemi anche il mio affettuoso saluto a Pietro Pancamo, che con tanta cortesia ha voluto invitarmi a questa conversazione sulla mia poesia. Ho deciso di parlare di me stesso non in prima persona, ma attraverso ciò che con grande, devo dire con grande generosità, altri hanno detto di me. E questo mi toglie un po' di impiccio, perché si sa che parlare di sé non solo non è facile, ma può essere addirittura anche non piacevole, nel senso che appunto si può dare una versione assai parziale di ciò che si è fatto nel corso della propria storia vissuta per la poesia. E allora io comincerò con il dirvi che nel lontano, ormai lontanissimo, 1992, io ebbi la fortuna di conoscere Maria Luisa Spaziani, alla quale affidai alcune mie cose inedite. Dopo qualche tempo, la Spaziani non solo mi invitò a pubblicarle, ma si propose come possibile prefatrice di un futuro libro. La cosa mi colpì profondamente. Non avevo chiesto nulla alla Spaziani, fu solo la sua estrema generosità. E da lì ci mettemmo all'opera e uscì il mio primo libro per le edizioni del Leone, Funambolo. E queste parole che ora vi leggerò sono le parole tratte dalla sua prefazione. Disse allora la Spaziani: parlare di un poeta totalmente inedito, di una voce che finora non si è espressa e che quindi non ha invitato nessuno ad esprimere un giudizio, un apprezzamento, un dissenso, è un'impresa che può preoccupare. Per la difficoltà di avventurarsi su un terreno vergine, sì, ma anche per l'eventuale responsabilità di suggerire, di scoprire, di isolare un tema o un tono destinati ad essere ripresi, e non sempre con originali innovazioni e proseguimenti, dai critici successivi, fino alla cristallizzazione di una sigla. Forse l'avventura mi preoccuperebbe meno se Paolo Ottaviani apparisse subito uno della coinè, uno dei moltissimi intercambiabili che oscillano dal tono dell'elegia, del pianto sulle cose e sui valori che finiscono sul solito amore che muore, fino al sarcasmo più o meno violento contro la volgarità della società di massa. La quasi totalità dei poeti giovani ci dice questo, ci ripete quanto si sentano stretti nel mondo in cui ci è dato di vivere. Un grigiore diffuso, rassegnato, non scevro di una certa saggezza, è il residuo più visibile dell'illustre decadentismo. La natura è per lo più assente. Ma ecco che Paolo Taviani, e qui suggerisco l'inizio di una sigla critica, evita il pericolo e rovescia l'angolatura. Senza ingenui ottimismi, tantomeno trionfalismi, data l'elegante essenzialità del suo discorso, ci dice, sorpresa, che può esistere oggi una serenità anche a volte radiosa. Sì, siamo nella polverosa avventura di Polline. La sua serenità necessita di contrasti per essere più visibile. Siamo dissolti in evidenza, nella luce del giorno, secondo la chiusa della bella poesia Fantasmi. Ma appunto lo siamo perché nella prima quartina c'è la dolce essenza, il dio ondeggiante della fiamma del caminetto, topo rassicurante e caro. La poesia, infatti, comincia con parole tutt'altro che causali. Gioia di vivere. Parafrasando Ungaretti, molte di queste poesie, soventi veri e propri quadretti di sconsituazione, ci suggeriscono un'allegria di naufragi. Ottaviani è troppo intelligente, filosoficamente intelligente, per esprimere sorrisi epidermici, abbandonarsi all'idillio. Sta sul filo della vita quale funambolo sul filo della morte. Ma su quel crinale di vita ci sta più saldo che in bilico. Un poeta, proseguiva la Spaziani, ricco di grazia leggera, consapevole del nulla e insieme felice del significante arabesco che le nostre illusioni vanno tracciando senza stancarsi mai, come dalla nascita al momento della morte il nostro cuore non cessa un istante di battere. Una contraddizione che Leopardi conosce bene, la stessa contraddizione, a volte incantevole, di quando cerchiamo di prolungare un sogno che ci piace, pur sapendo che, appunto, di altro non si tratta, se non di un'illusione. Bello questo ultimo riferimento, bello e puntuale quest'ultimo riferimento a Giacomo Leopardi, che certamente molto ha influenzato la mia formazione culturale e poetica. Qualche anno dopo la Funambolo, per la verità diversi anni dopo, io do alle stampe il poemetto bilingue Geminario e Paolo Ruffilli, nella sua nota di quarta di copertina, così parla di questo mio poetare in dialetto e in lingua contemporaneamente. La poesia di Paolo Taviani, dice Paolo Ruffilli, ha una colloquialità fluente, favorita anche dall'uso del dialetto, un idioma medievale umbro-sabino, secondo la definizione stessa dell'autore, che influenza l'italiano, da cui è a sua volta influenzato, nella spirale delle due correnti parallele di questo libro. Tale straordinario dialetto non ha niente di casuale o di esotico, ma è forma del pensiero, per Ottaviani, e in movimento alternato con la lingua incarna bene quella tipica tensione dell'autore tra il commosso senso civile della storia e il contrappunto della cronaca personale e familiare. Pubblico e privato, infatti, sono i due fiumi che, pur scambiandosi acqua reciprocamente, scorrono paralleli nello stesso mare, come le due parti, materna il dialetto e paterna la lingua, dello stesso corpo. Geminario è dunque una sorta di poema bilingue, composto da duplici canti o gemini, da cui il neologismo geminario, che mentre parla dell'oggi si fa specchio di ciò che di fondamentale è accaduto ieri, tra un passato contadino remoto e perfino arcaico, ma non come dato ideale, ma vissuto e autobiografico, e un presente urbano e metropolitano, di nuovo non astratto, ma nel riscontro autobiografico dell'autore, nel riferimento costante a quel rapporto natura-storia che segna insieme le singole esistenze e la vita collettiva. Cosicché la condizione esistenziale e il riscontro storico tramano l'intera tessitura del libro, riportando i valori individuali a una considerazione sempre anche sociale e dando evidenza, accanto alle personali tranche de vie, agli eventi traumatici di snodo e di evoluzione della storia. Il tutto, continua Paolo Ruffilli, con una forza poetica dagli effetti potenti, sia nel dialetto umbro-sabino che in lingua, frutto di una maturità umana prima ancora che espressiva, dentro lo specifico originale di una liquidità insieme come riduzione allo stato liquido nello scorrere inarrestabile delle vicende e come liquidazione di quelle stesse vicende di continuo operata dalla storia. Sì, sono parole che certamente colgono nel segno, di cui ancora oggi sono grato a Ruffilli. Difficilmente si può dire meglio del mio geminario. Si può dire meglio solo leggendolo. Ecco, dopo nella seconda parte di questo mio intervento, infatti, daremo spazio alla diretta lettura della poesia. Voglio ancora leggere qualche cosa che è stato scritto e detto intorno alla mia ultima raccolta, Nel rispetto del cielo, edita da Punto a Casa Editrice e con la postfazione di Mauro Ferrari. Mauro parla di una vena ricca e composita, quella di Ottaviani, la cui voce letteraria rivive con amore e creatività tutta la nostra storia letteraria. Ottaviani è oggi uno dei pochi poeti che ricercano una misura classica, pur essendo pervicacemente radicato nel presente, come basterebbe la prima sezione del libro a provare, con le sue continue oscillazioni fra passato memoriale e quello storico. Natura e storia, ecco, si insiste molto, come già aveva fatto la Spaziani, come aveva successivamente fatto Paolo Ruffilli, su questo rapporto tra natura e storia, sono, sottolinea ancora Mauro Ferrari, indissolubilmente legate e scindibili nel segno della civiltà, tanto che appare perfettamente intonato l'accenno alla ginestra di Leopardi. Il rapporto con la natura, descritta con amore viscerale e attenzione minuta alle sue molteplici manifestazioni, sottende comunque una vena di personale e sobrio panismo, esplicitato in lacerti come «la montagna umilmente mi è sorella», dove proprio l'avverbio «umilmente» è spia del peculiare atteggiamento umano di Ottaviani. versi come la limpida nescenza delle stelle mi orienta nell'infinito vuoto, oppure siamo eco che sorge in questa radura, esplicitano una concezione del rapporto tra io e mondo naturale che può essere etichettata come fondamentalmente romantica, in cui la serena contemplazione del bello e anche l'atteggiamento di reverenza nei confronti del sublime insito nella potenza della natura conducono a quella umiltà di fondo, non disgiunta da una più rude arguzia che emerge in testi come la citata Treccia autobiografica e nella verticalità di molti testi con forti venature cosmiche che emergono, ad esempio, nella lirica eponima Nel rispetto del cielo. Si veda poi, continua Mauro Ferrari, una qualunque delle trecce costruite sulla base di una versificazione peculiare, in cui un blocco di due quartine ipermetre è seguito da una quartina di senari a rima alternata. Impossibile non ammirare in questa sezione la straordinaria sinfonia dei rimandi interni che si ripetono con regolarità, dando al testo un andamento fortemente musicale. Giustamente, Antonio De Viscenti parla di finissime tramature di rime e richiami sonori all'interno dei versi e da verso a verso. Conclude poi Mauro Ferrari dicendo che il vertice del libro, a suo parere, è rappresentato dall'ultima sezione, poesie sparse ed altre rime, che in sé costituisce, quasi a dispetto del titolo che potrebbe far pensare a noce o a bagatelle, un libro organico, in cui Ottaviani raggiunge un equilibrio fatto di levigatezza formale e ricchezza espressiva, chiaramente ottenuta con un lungo e fertile lavoro sui classici, echi latini e forse soprattutto greci contribuiscono con ricchi sovratoni alla riuscita di molti testi. Così nell'attacco di Sibille dormono sassi rossi le cime sibilline. È udibile la voce di Alcmane, o nel finale di Senza una rosa, non siamo se non polverosa ventura. Viene ripreso l'Orazio dei Carmina, pulvis et umbra sumus. A dispetto di questo, la lingua di Ottaviani qui appare sempre calata nella contemporaneità, con un notevole abbassamento del registro stilistico che pare preludere ad una nuova fase o comunque a interessantissimi sviluppi nella poetica dell'autore. Sono parole che sottoscrivo in pieno, ma mi piace concludere questa mia prima parte. Successivamente andremo direttamente alla lettura dei testi. Mi piace concludere questa mia parte con le parole di una bellissima, lunga recensione che ha scritto il drammaturgo Augusto Benemeglio al mio ultimo libro, Nel rispetto nel cielo. Dice Augusto Benemeglio: Ottaviani si è seduto ai piedi dell'albero antico della sua madre terra e ha cominciato a sognare ad occhi bene aperti. Ha scoperto d'un tratto la sospensione della vita e del dialogo con le creature. Ha scoperto di essere vivo e che morire significa espandersi, crescere. Ha scoperto la fratellanza degli alberi, la riconciliazione con ciò che si alza nel cielo, ma anche con ciò che regge la volta del cielo e ciò che il cielo lascia cadere come un dono. Grazie ad Augusto Benemeglio e grazie a voi della vostra attenzione. Stasera non c'è più tempo per ascoltare le letture di Paolo Ottaviani. Le rimandiamo dunque alla prossima puntata. Non perdetevela, cari amici di Radio Big World.